Ed eccoci di nuovo in diretta a Roma, la piazza, il corteo che sta cercando di raggiungere Montecitorio. Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Il corteo che va nei numeri, molto al di sopra delle aspettative, è un serpentone infinito. Io penso che sta decisamente sopra le 10.000 persone come numeri veri delle persone che sono scese in piazza. Tantissimi, diciamo, poi anche un altro dato, età anagrafica molto bassa, non solo perché ci sono molte scuole, ma anche effettivamente la grande mobilitazione dell'università, soprattutto dei primi anni, di chi probabilmente si sente di più scippato il proprio futuro in queste ore. La giornata è ancora molto lunga, qua il corteo si muove molto lentamente, appunto anche perché è difficile tenerlo, essendo veramente molto grosso, ma il dato è che già al di là del grosso corteo che si è mosso per Aldo Moro dalla Sapienza, ci sono già studenti medi collettivi in giro per il centro storico che stanno già cominciando a assediare Palazzo Chigi. Qua le forze dell'ordine dicono che fino a Piazza Venezia, adesso ci dicevano prima, era garantito lo scorrere del corteo, ora vedremo che cosa accade. Il corteo mo appunto è fermo a circa 500 metri dall'altare della patria. Vedremo un po' che succede. Sicuramente è grandissima la determinazione degli studenti, una grossa anche eccedenza di partecipazione al di là dei collettivi, delle solite persone che, diciamo, si può dire, vengono in piazza, partecipano alle mobilitazioni. Io non so cosa sta accadendo nelle altre città, ma qua sicuramente una partecipazione La sensazione è quella che stai anche avvertendo tu in piazza, una grandissima partecipazione come numeri, ma anche se vuoi appunto come spinta, come determinazione. Quello che si sente appunto è una grossa determinazione da parte proprio, non tanto dai corpi appunto, dai corpi politici del corteo, ma proprio dalle migliaia e migliaia di persone. Sì, le città sono in tilt un po' dappertutto, da Bologna passando per Torino, Napoli, Palermo, leggevo appunto Milano, catene intorno a parecchi rettorati. C'è una grandissima, proprio appunto, lo dicevamo prima, determinazione dello stare in piazza. Dato che poi indica probabilmente anche una mobilitazione vera, reale, di tantissime persone, il fatto che effettivamente oggi facoltà, molte facoltà della Sapienza sono rimaste chiuse, picchettate questa mattina, i dipartimenti incatenati, insomma, giornata ovviamente di blocco vero, non solo della città ma anche delle città universitarie, immagino Sapienza comunque sia mezza vuota. Sì, il corteo è ancora fermo, evidentemente gli studenti si stanno organizzando anche per capire come gestire questa situazione, essendo anche appunto il corteo molto grosso. Sicuramente poi tocca sentirsi, perché non finirà neanche qua a Montecitorio, perché la giornata è molto lunga, la votazione è molto tardi, quindi quello che è un po', diciamo, il giorno più lungo dei movimenti universitari, vedremo che succede. Sicuramente c'è un primo dato che è assolutamente significativo, che è quello dell'eccezionale partecipazione del blocco reale degli istituti e delle facoltà. Sì, hai detto bene, oggi sarà una lunga giornata che sicuramente non si esaurisce oggi a pranzo. Nel frattempo ricordiamo un'agenzia, e con questo, se non hai nulla da aggiungere, andiamo anche a salutarci. No, guarda, l'unica forse cosa, sempre rispetto alle sensazioni, quello accade in piazza, che sicuramente ci sia tantissima determinazione, non soltanto sulla questione del DDL Gelmini, ma quella che si sta ponendo qua, come nel 2008 con l'Onda, al di là del mondo della formazione, è una grossa questione generazionale. Questa è una sensazione molto chiara anche nelle parole d'ordine, parla appunto del futuro, i cori che parlano del futuro, della precarietà, eccetera. Quindi sicuramente oggi, dopo l'Onda, è un punto di svolta, per una generazione che è molto arrabbiata in Italia come nel resto d'Europa. Poi in caso, a proposito del resto d'Europa, se mi metti fuori Onda, e insomma, proviamo anche a coprire la mobilitazione di Londra, perché insomma anche oggi sarà una giornata molto lunga là. Perfetto, grazie. Ciao.